Vasquez, buonasera, come va? Ben trovato. Buonasera, a volte ritornano. Ci hai dato buca la scorsa settimana perché eri, dove eri? Al Festival del Film di Roma, dove erano del resto tutti gli appassionati di cinema. Sì, com'è andata? Molto bene. Ne sono lieto. Allora, chi ha vinto? Non lo so. Ha vinto un cuentocino nella... Guarda, nella il tuo, quello che sta per prendere il tuo posto, Giovanni, me l'ha mandato già alle 19.20. Hai arrivato ora il tuo messaggio. Adesso arriva il messaggio. Vabbè, l'ascoltatore su Skype, da Skype, Giovanni, che è un grande, secondo me, critico, me li ha mandati alle 19.22. Quando sono stati proclamati. Certo, ma lui è stato tempestivo, tu no. Ma io sapevo di venire qua e di avere un emittente. Certo. Sono appunto un quentocino. Grazie, Giovanni, ci vediamo presto. Non devi neanche dirgli, per quella posa poi, sì, ok, si fa. Dicevo, un quentocino per il concorso ufficiale e Girl Model per la sezione extra. Girl Model ha vinto anche il premio del pubblico. Bene, qui ci sono altri premi che lui... Vabbè, sono tutti premi collaterali. Li enuclea tutti e te invece... Ma se volessi anch'io potrei... Certo, insomma. Guardi su internet. Invece lui... Lui stava lì, caro mio. Era la serata di gala. Lui stava lì. E allora sì. Mi hanno detto che ti hanno anche intervistato a Radio 2. Sì, anche Radio 2 mi hanno intervistato. Ti hanno sentito. Esatto, pensa. Una figura pessima. Hai fatto il serio tutto. E quando Radio 2 mi hanno detto ma scusa, te parli in una radio di rock? No, assolutamente no, non, assolutamente no, è un'omonimia. Bastardo. Ma hai parlato tutto con Pito, salve. Sì, con esatto. La voce profonda. Salve il cinema. Esatto, esattamente così. Con la sciarpa, avevi la sciarpa? Che si vedeva in radio. La pipa, anche la pipa. Avevo un dolce vita, un maglione a collo alto. Col giornale Figaro sotto il braccio. La baguette. Allora, bene, com'è andato questo? Anzi, parlami invece del film su Agostino Di Bartolomei, che io purtroppo sono riuscito a vedere. Uno degli eventi, diciamo, di questo Festival del Film è stato... Forse è stato un bene perché io avrei pianto. Ma non saresti stato l'unico. Lo so. È stato la proiezione di 11 metri, che è il documentario di Francesco Del Grosso su Agostino Di Bartolomei, giocatore della Roma. Non c'è bisogno di stare qui a presentarlo. Chi lo conosce non lo conosce. Chi lo conosce lo conosce, chi non lo conosce è troppo difficile spiegargli la complessità della figura. Ci dispiace per lui. Esatto. Il documentario, allora, innanzitutto vi dico, so che uscirà, è altamente probabile col Corriere dello Sport, anche se non è sicurissimo, comunque uscirà. In DVD, chiaramente. Affronta cronologicamente, quindi nella maniera più canonica e semplice, la vita di Agostino Di Bartolomei, dalle giovanili fino alla morte. E diciamo che la sua forza non sta tanto nella costruzione, perché diciamo che è molto canonico e quel che dice già lo sappiamo, bene o male. Non è che ci sono rivelazioni, novità, non c'è questo. La forza sta innanzitutto in alcuni documenti molto interessanti, perché aggrega tutte le interviste di Bartolomei, cioè quattro, no? cose che non parlava quasi mai di Bartolomei. Quindi aggrega quasi tutte le cose nei momenti in cui parlava. Fa molto parlare il figlio e la moglie, quindi c'è anche uno spaccato leggermente diverso dal solito. E devo dire, le persone che solitamente sentiamo parlare, Bruno Conti, Pruzzo, cioè quelli, i compagni di squadra dell'epoca, questa volta sembrano un po' più in forma. Questo credo sia merito del documentarista, perché hanno una passionalità un po' diversa mentre ne parlano. Insomma, è un racconto un po' più coinvolgente. Se proprio gli dovessi muovere una critica, ma in fondo è all'acqua di rose, è che c'è un po' poco calcio, si vede un po' poco di gioco. Però insomma, non forse è... magari non gli hanno dato forse i documenti filmati, va a sapere. No, può essere, però insomma è veramente una critica all'acqua di rose, nel senso che poi non se ne sente neanche troppo la mancanza di queste cose. La parte più interessante, secondo me, è quando poi fanno un parallelo gli stessi conoscenti, parenti di De Bartolomei col film di Paolo Sorrentino, L'Uomo in Più, che è un film che non parla di Bartolomei, ma racconta la storia di un calciatore che è quasi la storia di Bartolomei, è praticamente uguale. E fanno questo parallelo tra finzione e realtà, cosa Sorrentino ha preso effettivamente, ha azzeccato di quel modo di intendere lo sport, la vita, e cosa no. Ed è quello è un momento molto forte di contaminazione tra il documentario e la finzione. Va bene, ma veniamo invece ai film che sono usciti e che usciranno questa settimana. Perché esatto, ce ne sono tanti, ma non c'è niente di importante, secondo me. E invece sbagli. Vabbè, Warrior, dai. Warrior è una bomba. Ecco. Allora, ragazzi, Warrior è una bomba. Io l'avevo annunciato prima del Festival di Roma. Perché fai questa? Fai la faccia sfiduciata. No, mettetevi lì, così lo mettete in difficoltà. Mettetevi sempre vicino a lui. Così lo mettete in difficoltà. Un giorno io racconterò questa mia lunga esperienza come un'incredibile lotta per riuscire a fare il mio lavoro. Bene, adesso faremo anche delle foto e le gireremo. Eh? Ma non a persone che conosciamo entrambi? Sì, penso proprio di sì. Insomma, dicevo, Warrior è un film di cui avevamo già accennato prima dell'inizio del Festival di Roma. È un film dal quale non dovete lasciarvi ingannare, perché viene promosso molto come una vaccatona americana di cazzotti. In realtà è un film estremamente, estremamente commovente. Io credo più che altro commovente per un pubblico maschile, credo. Perché comunque spesso i film sullo sport, i film sullo spirito che trionfa sulla materia tendono a commuovere più gli uomini che le donne, però secondo me è abbastanza universale. È la cosa più vicina e non uguale, vicina che io abbia mai visto nella mia vita a Rocky, perché veramente ha un modo di muoversi, un modo di far coincidere lo sforzo e il gesto fisico con il gesto sentimentale, che è veramente, ma mi ha impressionato. Ma la trama, la fredda cronaca. Giusto, bravo, la trama, bravo, perché... mi hai rimesso sui binari giusti. Parli di divaghi, divaghi. Esatto, perché sai com'è la poesia. Vabbè, il dottor Divago. Sì, era raffinatissima questa. Allora, la fredda cronaca. Ci sono due fratelli che noi vediamo subito nel film, non si parlano più, ma non si parlano da anni, il perché poi lo scopriremo, che entrambi per ragioni diverse si iscrivono ad un torneo di arti marziali miste, che sostanzialmente vuol dire ce le diamo di santa ragione con tutti gli stili, tutto quello che è possibile, esatto, picchiarsi. Era un giudizio da esperto della materia, sì. Questo mega torneo dove in palio ci sono 5 milioni di dollari, c'è cioè un torneo immenso. Entrambi si iscrivono, entrambi sono fortissimi perché avevano un padre ex marine che li aveva allenati in una maniera pazzesca, poi capiremo anche perché si sono separati dal padre. Uno ha una motivazione fortissima, è un disperato, è proprio totalmente disperato, non ha niente, non ha più niente. Talmente che non ha niente, che torna dal padre che odia per farsi riallenare. Anche se si odiano non si parlano. Il padre è Nick Nolte. Nick Nolte, il grandissimo Nick Nolte, in un ruolo di ex ubriacone straordinario. Beh, ma lui anche in Triplo Gioco fa l'ex tossico, cioè tossico. Lui quando fa queste cose è imbattibile. Te l'ho consigliato quel film. Sì, sì, ma l'ho anche visto. Bene. E uno è disperato, non ha niente e quindi è pieno di motivazione. L'altro ha ancora più motivazioni perché ha delle cose, ha una famiglia, una moglie, una figlia, quindi ha qualcosa da perdere e questa cosa lo rende un animale. Entrambi si incontreranno per la prima volta dopo anni lì al torneo e succederà veramente, veramente, veramente di tutto. Ci sarebbero mille altre cose da dire, ma non ve le voglio dire perché è un film bellissimo da scoprire. Sappiate comunque, immaginatevi quel misto di trionfo di un cuore su un fisico che c'è in Rocky, però moltiplicato per due, perché una cosa bella del film è che entrambi sono realmente protagonisti, nessuno dei due è un coprotagonista, tant'è che a un certo punto, come avrete intuito, si arriverà al grande scontro finale. E io a metà film mi sono chiesto proprio: questo film è impossibile da finire, cioè non lo si può finire in una maniera buona, perché se vince uno è brutto perché ha perso l'altro e non ha senso, se vincono entrambi è ancora peggio, è ancora una non è una partita peccata di calcio, quindi non si può pareggiare, non si può pareggiare, per cui ma vedrete che finisce in una maniera, cioè mi ha veramente fa sorpreso. Ti dico solo una cosa, io torno a rivederlo pagando, ti dico solo questa cosa. Questa cosa mi sconvolge. Esatto, io torno a rivederlo pagando. Perché andiamo insieme, andiamo insieme al cinema. Sì, sì, potremmo. Ma in 3D? No. Allora non vengo. Peccato, siamo stati a un pelo, ci eravamo quasi. Quindi allora, diciamo che Warrior, fin della settimana. Mi scrive un ascoltatore che scrive: Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha diramato l'avviso di condizioni meteo avverse sul territorio laziale a partire dalle prime ore di domani, sabato, fino a domenica. E quanto dichiara il responsabile del Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile del Lazio, Francesco Mele, il quale precisa che sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale di forte intensità, venti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate sulle coste. Poi la Protezione Civile della Regione Lazio ha quindi avviato tutte le procedure di allertamento agli enti locali ed organizzazioni di volontariato nel territorio, in linea con quanto pianificato nel corso del vertice che si è svolto ieri con la Presidente della Regione Lazio. Insomma, il Centro Funzionale Regione Lazio, aggiunge bene, proseguirà a monitorare in tempo reale l'evoluzione delle perturbazioni tenendo sotto controllo i livelli dei fiumi e dei laghi. Forniremo inoltre, come di consueto, tutte le indicazioni, eccetera. Quindi se volete sapere di più, c'è il sito della Regione Lazio, il sito ufficiale, e quindi importante. Quindi attenzione, domani potrebbero esserci delle precipitazioni a Roma, serie, per uno di quello che dice la Regione Lazio. Ora è importante che abbia attivato finalmente, visto che la scorsa settimana, anzi due settimane fa, si era fatto ben poco. Però memori di quello che è accaduto, hanno deciso di provvedere bene, e questo è un buon segno. Allora, perché Pappagallo coccola e vezzeggia il suo critico mentre Faster lo deride e maltratta? Vasquez, vieni la mattina, scrive. Se va avanti così potrei pensarci. No, dai. No, scherzo. Beh, meno male. Peccato. Perché noi siamo come una vecchia, come siamo i Sandra e Raimondo di questa radio. No, ma Vasquez è il numero uno, eh. Numero uno, eh. Numero uno, assoluto. Va bene, ma veniamo ad altri film. Il Kryptonite nella borsa, prego. Ah, ne vorrei parlare veramente volentieri, ma è un, sì, è un film del Festival di Roma, e quindi il conflitto di interessi mi impedisce almeno di parlare la secca trama. Leggerò la sinossi. Questa cosa farò. Declamerò la sinossi. Guarda, io chiamo il nostro altro critico. Magari l'ha visto. Potrebbe averlo visto. Vabbè, attenzione. No, intanto, vai. Io leggerò la sinossi. Prego, sinossati. Trama. Ogni film ha i suoi segreti. Bene. Ma alcuni fanno più ridere di altri. Napoli, 1973. Peppino Sansone ha 9 anni, una famiglia affollata e piuttosto scombinata, ed un cugino più grande, Gennaro, che si crede Superman. Le giornate di Peppino si dividono tra il mondo folle e colorato dei due giovani zii, Titina e Salvatore, fatto di balli di piazza, feste negli scantinati e collettivi femminili, e la sua casa, dove la mamma si è chiusa in un silenzio incomprensibile ed il padre cerca di distrarlo regolandogli pulcini da trattare come animali da compagnia. Quando però Gennaro muore, la fantasia di Peppino riscrive la realtà e lo riporta in vita, come se il cugino fosse effettivamente il supereroe che diceva di essere. Ed è grazie a questo amico immaginario, a questo Superman napoletano dai poteri traballanti, che Peppino riesce ad affrontare le vicissitudini della sua famiglia e ad accostarsi al mondo degli adulti. Vabbè, un po' scarno, scheletrico. Però possiamo dire una cosa, che rientra nella fredda. La fredda. È il primo film diretto da Ivan Cotroneo, che è, tra le altre cose, lo sceneggiatore di Tutti pazzi per amore, che è una delle serie per la televisione più interessanti del panorama italiano. Ma c'è Valeria Golino. E c'è Valeria Golino, no, c'è Cristina Capodondi. Distrutto. Però aspetta, c'è un altro film che sono distrutto, sicuro che ti piace, perché io ormai ti conosco. Sì. C'è Luca Zingaretti. Grande Luca. Lo sapevo. Grandissimo Luca. No, Valeria Golino. Si annullano. Come la Kryptonite e Superman. Esatto. Mannaggio. Invece un altro film molto atteso di questa settimana, che mi stupisce che tu non mi chieda. Volevo chiederti. I soliti idioti. Stavo per chiederti. Stavi per chiedermelo? No? Sì. Dai, allora chiedimelo, dai. I soliti idioti. Ah, soliti idioti. Che film. Allora, stiamo parlando del film tratto dall'omonima serie televisiva, comunque serie di sketch televisivi, prima andati su Comedy Central, poi su MTV, di più famosi su internet, esatto, perché li guardano tutti, giusto, su internet. Esatto. Tutti legalmente, tra l'altro. Legalissimamente. Di Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Allora, com'è questo film? Innanzitutto dico subito una cosa importante: a me i soliti idioti fanno ridere, e questa cosa va detta perché a tantissime persone non fanno ridere, anzi fanno li odiano da morire, quindi già dividiamoci subito, io mi metto tra quelli che ridono. Il film rende molto giustizia, secondo me, ai personaggi un po' centrali dei soliti idioti, che sono padre e figlio. Non c'è nessun altro. Ecco, Gianluca. Ciò dice proprio a me, sì. Che sono figlio della merda io, eh? Cioè i mini pony al culo? Mini pony. Mignigni. Io ti ammazzo, papà. Ti ammazzo, papà, io. Gianluca! Guardacci, mio, ma che cazzo stai a fare, Gianluca? Sto guardando allo specchio, papà. Guardacci, mio, ma ci fa solo il figlio così frocio che si guarda allo specchio, cazzo, io! Io c'ho un figlio che si guarda allo specchio a petto nudo come i vertiti di Amici di Maria De Filippi! Ma con tutti i spermatozoi che c'avevo, ma proprio lo spermato frocio doveva arrivare! Gianluca, esci di casa, Gianluca, vattene, il nostro rapporto è finito ormai! Vattene, esci di casa, viaggia Gianluca, dai cazzo, viaggia! Invece te sei come lo sgrullo, quella goccia di fiscio che ti rimane attaccata al pisello. Vabbè, insomma, quindi... questi due personaggi che sono tra i più di successo della serie. Filippone è geniale. Ignometti. Che sono quelli di maggiore successo della serie, sono la parte centrale del film. La storia è che Gianluca si sposa con una ragazza che Ruggero odia, chiaramente. Certo. E lui è disperato di questa cosa e fa un'incredibile scommessa con un altro suo amico orrido, Ruggero, che farà andare a letto Gianluca con una strafiga incredibile che hanno visto, una che fa le pubblicità. E quindi faranno questo viaggio da Milano a Roma in ambulanza, perché così possono passare sulla corsia d'emergenza. Straordinario. Poi ci sono un po' anche altri personaggi. Ci sono i due gay. Ci stanno quello che consegna i pacchi con l'inserviente che gli dice sempre un minutino, aspetti un attimo. Però sono più deboli. La parte centrale chiaramente è quella di Ruggero e Gianluca. Dicevo, a me fanno molto ridere. Il film non è questo gran film, però è divertente, che è la cosa centrale che non era scontato, perché non sempre è così. E la trama è anche lievemente più articolata. Il punto è che questo film è odiatissimo. Come, cioè, a parte un nucleo di persone che secondo me sarà questo, lo vedremo al box office, però secondo me è abbastanza consistente, c'è tutta un'altra parte che li odia con una forza incredibile. Cioè, spesso, cioè quasi tutti i comici fanno ridere qualcuno e qualcuno no. Certo. Pochi fanno imbestialire chi non ride. Vabbè, perché loro non hanno proprio limiti. Non hanno mezze misure. No, esatto. Lo fanno e basta. Ma è bello me così. È in questa la loro forza. Politica, cioè, correct non esiste qua, esatto, in questo caso. Cioè, alla fine, adesso dirò questa cosa non simpaticissima, però MTV Italia raramente ha fatto il lavoro di MTV, cioè segmentare il proprio pubblico dandogli non solo qualcosa che gli piace, ma anche qualcosa che li differenzia da tutto il resto del mondo, come fa la musica, perché l'idea era quella, come i punk, come i metallari, che sono odiati poi da chi non li capisce. Questo è uno dei pochi prodotti veramente azzeccati in questo senso. Sì, che sì. Taglia in due il mondo. Esatto, però. Che fa dire alle persone, al target, diciamo, al pubblico di questi film, fa dire proprio: voi non li capite, noi sì. Partita chiusa. Esatto. Non c'è alternativa, esatto. Sì. Quindi, se amate i soliti idioti, andateci, vi divertirete tantissimo. Cioè, allora, c'è un pezzo in cui gli insegna come si litiga. Ruggero insegna a Gianluca come si litiga con i coatti. È una cosa esilarante. Esilarante. Pensa, il nostro grande amico e sempre vate, Francesco Alò, li odia. Li ah, odia. Sì? Sì. Vabbè, perché lui purtroppo è uno che è rimasto indietro. È rimasto a via col vento. Indietro e avanti insieme. La Bibbia. La tunica. Come si chiama? Il più grande spettacolo del mondo. Grandissimo. A proposito del più grande spettacolo del mondo, c'è stata una cosa molto molto raffinata al Festival di Roma: la proiezione in Totò 3D. Cioè di un vecchio film di Totò, uscito in 3D nel 3D degli anni 50, quando... Con gli, insomma, occhialini. Esatto, rimesso nel 3D vero di oggi, quello stereoscopico, serio. Bellissimo. Profondo. Infatti è molto molto interessante. Non so se avrà una distribuzione. Intanto si è visto al festival. E esitante all'inizio inizia col regista che spiega cos'è il 3D. Fa una cosa un po' da van spettacolo, da varietà. E dice: una tecnologia con la quale possiamo dare un fiore alla signora in prima fila. E lancia il fiore verso la macchina da presa. Poi ci sono continuamente oggetti lanciati verso il pubblico. Ci sono gag. In realtà la profondità poi è poca, perché comunque è quella dell'epoca, rifatta con i mezzi di oggi. Ma era girato comunque in quella maniera. Quindi sono solo due piani di profondità. Però è molto molto interessante come documento. Cioè avevano fatto uno spostamento di soldi. Non solo, beh, Totò. Ma la cosa che non capisco, ma già negli anni 50 c'era il 3D. Ma il 3D è una tecnologia dei fratelli Lumière, cioè proprio degli inizi, quello anaglifico, cioè lente rossa e lente blu. Ah, che il treno che pam. Più o meno, sì, insomma, è una tecnologia molto molto vecchia, solo che funzionava malissimo, quello che faceva venire il mal di testa, era terribile. Quello di oggi è tutto un altro, si basa sul medesimo assunto, ma tutta un'altra precisione, diciamo, una precisione digitale non analogica, detto in parole povere. E, ma insomma, quel film aveva uno spostamento di fondi incredibile, perché non solo c'era Totò, ma fanno comparsate Fabrizi, La Mangano, Carlo Croccolo, insomma, c'erano un sacco di attori che si intravedono e prendono parte. Però io, da quello che mi ricordo, negli anni 70 ci fu il 3D. Ce ne fu un altro, inizio 80, ce ne fu, perché c'era lo Squalo 3 3D, Terremoto, tutti questi film catastrofici erano in 3D, esatto, con l'occhialino rosso e uno ci blu. Ci fu un altro ritorno negli anni fine 70 e inizio 80, è o vero. Verde, non ricordo. Le tre fasi del 3D. Allora, Vasquez, ma tu eri il co-curatore della sezione extra del festival, ho riconosciuto la tua voce già l'anno scorso, in realtà durante alcune presentazioni, se non eri tu hai un sosia vocale che fa il tuo stesso lavoro. No, Ale. Confermo, ero io che facevo adesso, le presentazioni. Vabbè, questa è no, proprio... Dillo, sì, ero io. Vabbè, sì, ero io, mi avrai riconosciuto. Vasquez è il top, un film raccontato da lui sembra di vederlo. Grande, mio fratello è sempre grande. Ma invece vorrei sapere che impressione ha avuto l'ascoltatore a sentirmi tutto serio in sala a fare buongiorno, ma benvenuti in sala. Eri in giacca e cravatta? Cravatta no, però in giacca. Giacca e camicia aperta? Celeste? Camicia celeste o bianca? Bravo, celeste o bianca, a seconda dei giorni, non è sempre la stessa. A seconda dei giorni, celeste e bianca un po' aperta, perché sono sì preciso, ma anche giovane e cinema. Sì, sì, sì. Avevi le cuffiette dell'iPhone da qualche parte? Se... No, quello lì no. No, no. Allora rieccoci di nuovo qui in diretta, questa è Radio Rock 2031, stiamo parlando di cinema, cellulite e cellulite, l'appuntamento del venerdì con il cinema. Gabriele Vasquez, prego, a te la parola, stavi dicendo? Che stavo dicendo? Non lo so, ma non possiamo fare sempre i cialtroni così, dai. No, stavamo... Ora che sono andate via le mie fidanzate, le mie sei fidanzate, eh? Bravo. Le hai copiato fuori le tue mogli. Allora, parliamo di Pina 3D, vai. Allora, Pina 3D, avevamo accennato in passato, perché io ho potuto vederlo un po' di settimane prima dell'uscita, che è appunto di questa settimana, e ne abbiamo parlato perché è il film omaggio di Wenders a Pina Bausch, la coreografa, quindi è un film, detto veramente volgarmente, dei balletti, e in questo senso a me non è piaciuto, nel senso che non sono un amante di queste cose, la messa in scena non è talmente travolgente da farmi superare la mia idiosincrasia per questo tipo di balletti moderni, quindi non mi è piaciuto. Però ha un 3D pazzesco, veramente veramente impressionante. Allora, l'idea di Wenders era di fare questo film omaggio a Pina Bausch solo nel momento in cui avesse davvero padroneggiato la tecnica del 3D per davvero rendere la profondità, perché sono balletti che si fondano molto sul concetto di profondità, cioè il fatto di avere più piani oltre al primo, e quindi per lui era determinante. Si è impegnato molto, soprattutto si è associato con uno stereografo europeo, un francese, che è diventato poi, anzi che è già il numero uno in Europa per il 3D, per il 3D stereoscopico, e veramente il risultato raggiunto segna tutta la differenza tra il modo di fare cinema europeo e americano, cioè non che gli americani non siano capaci, figuriamoci, ma poi gli europei spesso riescono ad avere un guizzo maggiore a parità tecnologica. Il modo in cui interpretano la terza dimensione, il modo in cui immaginano spazi tridimensionali è veramente pazzesco. Ve lo dico nonostante il film non mi sia piaciuto, l'abbia trovato anche un po' noioso, però la tecnologia mi ha impressionato. I soliti idioti copiano quelli di Little Britain, ma male. Little Britain. Yeah. A proposito di soliti idioti, avete letto l'articolo della De Gregorio? Mi ha fatto pena quando l'ho letto. Allora, sì, Concita De Gregori ha scritto questo... Gregorio, scusa. Ha scritto questo articolo in cui condanna, dice, cioè non solo dice che non le diverte, però che è proprio sintomo di una pochezza intellettuale delle generazioni moderne. Addirittura dice: dovremmo ricominciare dai 6 anni, dai cartoni animati dovremmo ricominciare, dimenticando poi una cosa che mi faceva notare un collega, non mi ha proprio di questo pensiero, perché è di Pedro Armocida, che in effetti erano le persone tipo Concita De Gregorio che anni fa condannavano i cartoni animati giapponesi alla stessa maniera, come corruttori mentali. Più che altro la cosa odiosa è che ripropone quel dualismo cultura alta, cultura bassa, perché a un certo punto dice: ma com'è possibile che della gente vada in sala a vedere I soliti idioti quando nella sala accanto c'è Paolo Sorrentino con This Must Be The Place, implicando che uno elimini l'altro, che non si possa fruire di entrambi. Cosa che non è vero, perché esatto, io assurda. Per esempio adoro I soliti idioti come vado a vedere i film di Sorrentino. Esatto, infatti è questo dualismo non che si è la può cosa essere ridicola. Monoliti e avere proprio questi schermi che sono proprio legati proprio agli anni, esatto, al Soviet, queste cose. Pensare che una cosa ti abbassi e una ti elevi. Elasticità, così come quando mettiamo musica, insomma, molto semplice, quando mettiamo musica elevata. Esatto. La musica è musica, poi ognuno se la sente e se la suona come meglio crede. Poi ripeto, capisco secondo me perché bisogna incanalare le idee per forza quelle tue, insomma, vabbè. Poi insomma io capisco moltissimo chi non rida con I Soliti Idioti, nel senso che a per me divertono, carità, però per esatto carità. Il problema è non farne una questione di principio, moralità e di morale. Di, esatto, insomma, di decadenza dei tempi, che insomma, assolutamente no. Che poi su questi film, su queste cose proprio non ha nessun senso, su altre esatto. Forse sì. Esatto. Il domani che verrà, sai di cosa tratta? Perché ho visto il domani trailer. Che verrà. Il domani che verrà. Il domani che verrà è una storia incredibile che io devo dire non sapevo. Anzi, adesso per dirti tutte le cose in maniera corretta, vado anche a guardare la pagina Wikipedia per leggere i nomi corretti. Perché io ho visto Il domani che verrà, no? Che questo film che esce questa settimana, un film catastrofico. E mi sono proprio detto: dobbiamo affrontarli. C'è gente che muore là fuori! Dobbiamo essere pronti a tutto. Non sappiamo cosa possano fare. Se succede qualcosa, scappate. Insomma? Allora, è un catastrofico. E io, vedendo il film, mi sono reso conto, devo dire... Ero particolarmente poco preparato perché è stato in mezzo al Festival di Roma, se no solitamente sono più preparato. Però sono andato sguarnito al cinema. Mi sono reso conto che qualcosa di... si intuisce, quella storia raccontata è più grande di un singolo film. Così sono andato a vedere e ho scoperto che è una delle serie di libri più famose in assoluto per quanto riguarda questo tipo di catastrofici, che anche in Svezia sono adottati come libri di testo, vengono fatti leggere nelle scuole. Addirittura. Sì, è una serie che è iniziata nel 1993 ad opera di John Marsden, questo scrittore australiano, e che racconta di un gruppo di ragazzi, e questo è proprio il racconto che vediamo nel primo film, un gruppo di ragazzi che va in vacanza 2 giorni nella foresta, così 2 giorni per stare nella foresta, ridere, scherzare, adolescenti, la chitarra, esatto, droghe leggere, questa roba qua. Mamma mia. Ecco, lì condannare fino all'osso, proprio condannare. Io, cioè, nel libro che farò sulla mia esperienza qui rivederò certe cose. Bene, esatto. dicevo, vanno lì, notano qualcosa di strano, sentono rumori, però insomma alla fine se ne fregano. Tornano a casa, non c'è più nessuno, tutta la città è deserta. Non funziona più l'elettricità, non funziona internet, non funziona il telefono, niente di niente. Sono stati invasi. Scoprono dopo poco che tutte le persone sono state rastrellate e messe come in un campo di prigionia, perché un esercito, che loro non capiscono quale sia, perché non ci sono bandiere, è partito l'invasione in 2 giorni. Cioè, ha attaccato i porti, ha cominciato con i carri armati, girano coi fucili, stanno lì e sparano a vista. Non vi anticipo altro perché è interessantissimo per capire chi, come, quando, perché, che faranno questi. È una serie di, come detto, una serie di libri, e dal finale del film si capisce che potrebbe essere secondo, anche una serie di film. Il terzo, esatto. Eccetera. Vedremo come va, però può essere anche una serie anche questa. Ed è... Non dirmi che ti è piaciuto. Purtroppo no. Cioè, a un certo punto, no, perché ha questo spunto fortissimo, allora, no? Allora, quando tu, quando capisci lo spunto, dici, porca miseria, ma questo è forte. Invece no, l'azione è mal diretta. C'è poco di questo respiro catastrofico, cioè, veramente, c'è poco. È come se tu, spettatore, sapessi che cosa ci deve essere adesso. Dici, ok, ho capito, adesso però facciamo una cosa figa tipo di questo tipo, e non accade, oppure viene fatta male, e questa cosa ti fa rosicare tantissimo. Quindi un film monco. Un po' monco, moscio, ha un po' di questo. Però insomma, se siete appassionati mi saprete dire meglio se poi è simile o diverso al libro. Però certo, l'idea è molto molto forte. Sì, ma dell'ultimo film di Sorrentino che ne pensate? Mi sono perso la vostra opinione, che è fondamentale. Giusto, poi per la dialettica noi diamo la linea. Esatto, caro poi mio, la linea. Metti che un ascoltatore di Radio Rock per dire si trova in un salotto buono della Roma Bene con Concita De Gregorio, che va al ristorante, non con Concita De Gregorio, ma che va al ristorante e poi prende l'aereo. Esatto. Viste le ultime dichiarazioni del nostro premier, va molto al ristorante. Esatto, è questo tipo di vita, insomma. Ricca, diciamo, piatto ricco, micificco. Ambiente. Diciamo alta. Allora, a me l'ultimo film di Sorrentino non è piaciuto, nonostante metta sul piatto una produzione di alto livello, nonostante Sean Penn si impegni moltissimo ed è una delle cose migliori del film, quanto cerchi di dar vita a questo personaggio tipicamente sorrentiniano. Però poi il resto del film manca, fa questo viaggio lungo in America che attraversa tutti gli stati alla ricerca di questo nazista che aveva ossessionato suo padre. Però alla fine questo qui è un viaggio più cartolinesco, cioè più di vedute, non si instaura quel rapporto tra personaggio e paesaggio che si intuisce dovrebbe essere la forza del film. Cioè, no, come diversi scenari, diversi mondi, diversi momenti influiscano sul protagonista, che nella finzione della storia viene dall'Irlanda, quindi comunque anche lui è uno straniero in terra americana, come sarebbe il regista sorrentino. Quindi in questo un po' mi ha deluso. Prima di Dead Man Walking volevo urlarti, giuro, dai Vasquez. Non l'ho fatto per non metterti in imbarazzo e per non farti perdere il lavoro. Lo sai che sarebbe stata una cosa straordinaria? Io sarei impazzito. Cioè, io devo dire, non so come avrei reagito. Avrei potuto urlare anch'io. Vabbè, meno male che non è successo. Grazie, grazie per non averlo fatto. Grande, grande gli ascoltatori. Ti trovavamo a servire i tavoli. Sì, esatto. L'anno dopo. Mi levavano i gradi come militari, capito? Mi levavano i gradi sul posto. Oh, il box office, Vasquez. Allora, il box office. Allora, questa settimana, stranissimo, Ten Ten, il nuovo film d'animazione di Steven Spielberg, che ve lo ripeto, è bellissimo. È veramente un film di avventura e di azione come raramente se ne vedano. Tutto d'un fiato, tutto sparato, lungo, forte, in 3D, ben disegnato, con un performance capture ben fatto. È veramente un piccolo film perfetto, senza alcun ombra di dubbio. Vi sfido a trovargli dei difetti, ha anche dei grandissimi personaggi. Io non ero un amante di Ten Ten, ho sempre ritenuto un saputello, non mi è mai piaciuto, ma devo dire che in questo film, specialmente il capitano Haddock, cioè la spalla, rendono molto. È l'ultimo vero Indiana Jones, è questo. Veramente, e insomma, non ha incassato molto invece, forse perché Ten Ten non è molto simpatico come personaggio. Io spero che poi con il passaparola faccia di più, però ha fatto solamente 984.000 euro. Che al numero uno c'è la peggior settimana della mia vita. Gli vale la seconda, e alla prima c'è la miglior settimana della mia vita. Finché a me non era piaciuto, e io l'ho detto, a me non è piaciuto. E invece sta andando bene, cosa che comunque non botteghino, non mi dispiace. Ti frega, caro mio, ti frega. Il pubblico. Allora, la peggior settimana della mia vita prende lo spunto da una serie televisiva che affrontava appunto la peggior settimana della vita del protagonista, episodio per episodio. Ogni episodio era un giorno, ed era la settimana che lo avvicinava al matrimonio. Anche qua, Fabio De Luigi si sposa con Cristiana Capotondi e ha come amico disastroso Alessandro Siani. Più si avvicina a questo matrimonio, più ne succedono di terribili. Più però che ricordare questa serie, somiglia moltissimo a Ti presento i miei, il film con Ben Stiller e Robert De Niro. Perché c'ha quelle dinamiche, il padre burbero, lui che fa dei casini pazzeschi, casa di lei molto ambiente, lui un po' meno. Cioè proprio instaurano quel tipo di l'animale che farà una fine indegna. Io non sono rimasto molto contento, insomma non è che mi sia divertito tantissimo. Critiche arrivano per i podcast, ecco. Dagli con questi podcast. A proposito, avete parlato di Ten Ten, visto che i podcast stanno ancora al 14 o 21 ottobre. Allora, non so se ne avete parlato la settimana scorsa. Sì, cioè, hai ragione, non l'ho messo perché c'è stato il festival che mi ha impegnato e faccio un mea culpa ufficiale, ma ce l'ho lì da parte. Appena metto questo di oggi, metto insieme anche l'altro, perdonateci. Siamo sottonumerati, abbiamo bisogno di più mano d'opera, però purtroppo è così. Purtroppo la verità è che io non voglio dividere il mio cachet con altra gente, e quindi... Invece, scusa, dobbiamo dare spazio a una delle grandi rubriche di Cellulite e Celluloide, che è Cellulite e Celluloide risponde. Ah, prego, porca miseria, me l'ho dimenticato. Quando avevamo lanciato la rubrica Cellulite e Celluloide risponde, ci avete inondato di domande e richieste che affrontiamo puntata per puntata. Questa puntata tocca alla richiesta che era: vorrei proprio sentirvi parlare di Il buono, il brutto e il cattivo. Tostissima. Una cosa tostissima. Beh, perché... serve una giornata almeno. Esatto, non solo serve una giornata, poi gran parte delle cose veramente già le sapete. È un film su cui tutti sono molto informati, si sa tantissimo, tutti l'abbiamo visto. È molto difficile trovare qualcosa di che non sappiate sul buono, il brutto e il cattivo, o di interessante. Sfida che io non ho potuto non accettare, insomma. Allora, quindi non mi dilungherò, ve lo dico subito, perché veramente se no sarebbe inutile, sarebbe andare avanti giorni. La cosa che penso sia più interessante parlare del buono, del brutto e cattivo, che raramente sento dire, che raramente vedo che lo si sottolinea, è che questo film di Sergio Leone, che lo diciamo giusto per dare due coordinate, questo film di metà degli anni 60, del 66, di Sergio Leone con Clint Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef, che è il terzo della trilogia del dollaro, il terzo spaghetti western della trilogia del dollaro, solitamente si manca di rimarcare come sia in realtà un grande spartiacque per la carriera di Leone, cioè un momento in cui il suo cinema prende una piega completamente diversa da quello che era in precedenza, ed è il nuovo percorso, quello che lo porterà fino alla fine a C'era una volta in America. Perché fino a quel punto, ovvero con i Peplum e poi con i primi due western, lui aveva fatto dei film all'interno proprio del genere, un genere che lui aveva creato, ma molto all'interno del genere, cioè erano dei veri film di serie B, erano come i grandi noir che faceva Fernando Di Leo, erano come i film horror di Mario Bava, che erano tutti coevi. Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana! Colonna sonora, vabbè, senza precedenti. Vabbè, sì. Questo è il finale. Esatto, inutile dire qualcosa. Dirò qualcosa anche sul finale, insomma, dicevo, è stato un punto di svolta molto forte, perché fino a quel momento Sergio Leone faceva film di serie B, ottimi film di serie B. I primi due, Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più, hanno tutte le caratteristiche del cinema di serie B, cioè un cinema in cui l'azione guida i personaggi, in cui tutto è centrato su quel che accade fattualmente, sui fatti, e poco c'è di poetico, di arioso, di aspirazionale, di intellettuale, che è uno dei, poi, dei loro grandi pregi. E pur portando molte innovazioni dal, non solo dalle grandi musiche di Morricone, ma anche l'uso che ne faceva Leone al modo di vestirli, al modo di riprendere questo western sporco, Leone però mancava di una componente che arriva in tutta la sua devastante potenza nel Buono, il Brutto e il Cattivo, cioè un'idea superiore ed epica di racconto. Nel Buono, il Brutto e il Cattivo arriva la politica, sostanzialmente. La durata si espande, diventa quasi 3 ore. Il film si fa epico. È lunghissimo, esatto. Bello. Sì, un film fiume, straordinario, in cui lui infila la guerra di secessione, non a caso, che era un tema che prima nei film precedenti non sarebbe mai potuto entrare, ma anche concettualmente. Perché lui comincia a pensare il cinema in una maniera più ampia. Subito dopo poi arriverà Giù la testa, che è un film ancora più politico, molto di più. James Coburn, se non ricordo. James Coburn, grandissimo. Sì, un film sulla nascita di una coscienza sociale. Poi ci sarà, C'era una volta il West e poi C'era una volta in America. Però è qui che poi veramente nasce quell'idea leonina di come si possa affrontare un tema più alto, come si possa parlare di società, di politica, riprendendo il passato, quindi non il presente, per grande metafora, per grande iperbole, diciamo. E non tutti sanno che era stato quasi scritto, c'era già il trattamento, erano quasi in parola per fare il 2. È l'unico film. Me l'avevi già raccontata questa cosa. Esatto, qui, di cui Leone voleva fare il seguito, che si doveva chiamare, almeno titolo di lavorazione, Il Buono, il Brutto e il Cattivo numero 2. All'epoca andava così, Esatto. 2 e 3. Esatto. Sarebbe stato comunque uno dei primissimi sequel, perché all'epoca c'era più l'idea di prendere un personaggio e fargli fare diversi film. Che ne so, Philip Marlowe, il detective, e faceva diversi film. Ma fare 1, 2, 3 è una cosa che... Per monnezza. Esatto. Però non c'era una numerazione. La numerazione è arrivata col Padrino, con Rocky, quindi alla fine degli anni 70. Questo sarebbe stato un'altra grande innovazione leonina. Clint Eastwood era pronto a fare la voce fuori campo per come doveva essere la trama. Doveva essere che il turco, cioè Eli Wallach, ripartiva alla caccia e Clint Eastwood avrebbe fatto la voce fuori campo. Però insomma, alla fine era tutto talmente aleatorio che si sarebbe fatto poco. Il biondo, cioè il personaggio di Eastwood. Sentiamo. Il mondo si divide in due categorie. Quando l'hai scaricata? Questa notte. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Insomma, il personaggio di Eastwood doveva essere morto, suo nipote doveva entrare in gioco ed Eli Wallach doveva andare a cercare il nipote perché sapeva che il nipote sapeva dove era il tesoro. Questa doveva essere a grandi linee la trama, ma non se ne fece veramente niente, cioè rimase veramente in una fase molto molto embrionale. Però questa cosa, quest'unica idea possibile di sequel tra tutti i film di Leone, fa capire poi quanto lui stesso fosse legato a questo film che gli aveva cambiato la vita professionale, comunque l'opera intellettuale. Tra l'altro credo abbiano speso parecchi soldi per fare un film del genere. Sì, una produzione ricchissima, fatta col consenso del regime franchista, perché comunque erano già in Spagna, il regime prestò delle attrezzature, truppe, che poi ci sono grandi scene di massa, l'esplosione del ponte. Insomma, sì. Delle cose molto molto la battaglia audaci. Quindi un sacco, esatto, di gente. Esatto. Questo era Cellulite e Celluloide risponde. Bene. Appassionato di Balcani, ho visto da poco Lo sguardo di Ulisse di Angelopoulos. Che ne pensate? Perché a me ha affascinato tanto, David. Allora, la filmografia di Theo Angelopoulos, il cineasta greco, è molto misteriosa. Misteriosa perché, per quello che dici tu, cioè perché affascina senza una motivazione precisa. Perché spesso ci si trova davanti a questi film che, diciamo, non sono facilissimi, però ricompensano tanto, e ci si trova vinti da qualcosa che non si capisce. È proprio questa commissione tra mistero di quelli che non capisci cos'è che ti sta prendendo, ma senti che qualcosa ti prende. È il mistero del suo cinema, è quello che lo rende grandissimo. Ma l'hai visto questo film? Sì, certo, è uno dei più famosi di Angelopoulos. Invece, a proposito di film non facili, ma secondo me assolutamente da vedere, settimana scorsa è uscito in sala Il vincitore di Venezia, ovvero il Faust di Alexander Sokurov. Le sale, come potete immaginare, non sono tante a Roma, ve le dico: sono il Mignon, l'Eden e il Farnese Persol, che adesso sarebbe il cinema farnese, adesso si chiama Farnese Persol. Impossibile dirvi di non andarlo a vedere. È un film tra i più belli visti negli ultimi 5 anni nei festival di Venezia. Andreste a rivederlo? Sì, sì, sì. Andiamo insieme? Sì. È in 3D. È in 3D. No. Siamo due idioti. Siamo due perfetti idioti. Ha un inizio che sembra un film di Robert Zemeckis, è incredibile, però incredibilmente austero. È un film, oggi ho letto una critica bellissima, devo dire, un pensiero non mio. Ho letto una critica bellissima e devo dire, voglio dire di chi è, perché era molto bella. Di Enrico Ghezzi, come ho fatto a dimenticarlo? Enrico Ghezzi, che dice giustamente: è un film senza il tempo, nel quale la dimensione temporale non esiste, tutto sembra accadere contemporaneamente insieme. Sono sicuro che non avete capito niente di questa cosa che ho detto, del resto l'ha detta Ghezzi, ma se vedete il film potete capirlo. Io, avendolo visto, ho capito subito cosa intendeva. In effetti è vero, sembra un film dentro il quale non c'è il tempo. È veramente, veramente un'esperienza particolare. Non perdetevelo. Il Faust. Allora, film invece che usciranno: Il buono, il matto, il cattivo. Questa cosa non... Mi giunge nuova. Come giunge nuova? Il buono, il matto e il cattivo. Forse è il titolo italiano di un... Manciuria, anni 30. Chang Yi, un killer dandy che ha perennemente stampato in faccia un sogghigno ironico, viene assoldato per recuperare una mappa in mano ad un banchiere giapponese. Intanto, a sua insaputa, l'infallibile cacciatore di taglie, Don Woo, viene incaricato dalla stessa missione dell'esercito indipendentista coreano. La mappa, però... Dopo un'esplosiva rapina ad un treno, è finita nelle mani di un ladro, Tea Gu, convinto che essa conduca ai favolosi tesori della dinastia Qing. Comincia una lotta serrata tra i tre, disposti a tutto per non restare fuori dal gioco. Era una voce d'annunciatore, cos'è? Bravo! Non l'hai visto. No, questo quando esce, scusa? Esce il 18-11. Hai voglia. Vabbè, scialla. Ah, perché tu non hai letto il titolo originale. Devi dirmi il titolo originale. Yoen Wom Na Ben Womi Shanghai Home. No, l'ho letto, ma non l'hai sentito. Perché l'hai pronunciato corretto. Scialla è il vincitore di Controcampo Italiano, ovvero la sezione tutta italiana del Festival di Venezia. Esce, se non sbaglio, tra 2 settimane. E devono ancora mostrare. Io l'ho perso a Venezia, lo ammetto, ma lo rifaranno. E quindi me lo rivedrò. Ci sarà un'altra occasione per rivederlo. Siamo arrivati alle 20.53, dunque... Ah, un'altra cosa, una notizia che vi do. È stato proiettato a Roma Il Re Leone 3D, cioè il film della Disney del 93, che è il più grande successo in assoluto della Disney moderna, cioè, e anche, pensa, è il DVD più venduto in assoluto, non della Disney, proprio il DVD che ha venduto di più in assoluto. Cioè, il DVD, proprio il DVD... Sì, il DVD, l'on video più venduto. È uno dei film di maggiori successo di sempre. Viene rimesso al cinema in 3D. Io l'ho rivisto adesso al Festival di Roma. Uscirà l'11 novembre nelle sale. È una cosa che la Disney fa spesso, che rimette al cinema i suoi film, ma è la prima volta che lo fa con un titolo contemporaneo. Solitamente rimette Biancaneve, Pinocchio, Bambi. L'ha fatto sostanzialmente perché, un po' per sfruttare l'onda del 3D, e poi perché, pensa, questa è una curiosità che non tutti sanno, hanno scelto Il Re Leone perché è stato il primo film dell'era moderna ad essere salvato a layer. Cioè, la Disney lavora sempre a livelli, cioè disegna gli sfondi, li tiene fissi e poi disegna sopra i personaggi. È una cosa che si sono inventati con la carica da 101. Per la prima volta col Re Leone, questi diversi layer li hanno salvati su hard disk diversi, quindi se li ritrovavano già digitali, già su hard disk e già separati, quindi già a livelli separati era più facile fare il 3D. Quindi per questo, e anche per il fatto che è uno dei film di più grande successo in assoluto, ritorna al cinema. In America ha sbancato il botteghino quando è riuscito. Ha veramente una cosa che ha sorpreso gli stessi executive Disney, che non se l'aspettavano. E vediamo che farà in Italia. Oh, Oh, qui mi scrivono, me lo sono perso, eccolo qua. Facciamo facciamo il gruppone Warrior. Ma è troppo tardi, tardi, sì. Todò verrà distribuito da Aurelio De Laurentiis. Extra è stata la sezione migliore di tutto il festival. Questo lo dice il tuo, quello lì. Il mio prezzolatissimo. Quello che adesso prenderà il tuo posto. Ah, beh, però sono contento, è uno che c'ha buoni gusti. Vabbè, mi dice se hai parlato di parla di Nuit Blanche. Nuit Blanche è quel film che ti avevo tanto consigliato, ma che non sei riuscito. Riprendere. No, te l'avevo tanto consigliato, ma non sei riuscito a vederlo, vero, perché è contemporaneo con la trasmissione. Hai ragione. Nuit Blanche è stato il film che adesso possiamo dirlo a posteriori. Tra quelli della selezione extra del Festival di Roma, è quello che ha avuto più successo. Applausi, in sala, scena aperta, i critici che ne hanno parlato bene ovunque. A tutti è piaciuto ed è bellissimo. È un noir, è un poliziesco che racconta la storia di un bastardo, di un poliziotto che ruba la droga ai criminali per i fatti suoi. Che viene incastrato dai criminali, che lo beccano, gli rapiscono il figlio, gli dicono portaci la droga, ti ridiamo il figlio. Lui ha capito subito che non andrà così, non sarà così facile. La polizia l'ha sgamato e ha le sue calcagna, e tutto in una notte, tutto in una discoteca, lui si trova stretto tra criminali che lo vogliono morto, polizia che lo vuole incarcerare, figlio che non riesce a trovare, e da solo, completamente solo, è ferito. È un film... E regge in una discoteca, una cosa del genere? Alla grande, perché la discoteca... c'è tutto il palazzo, quindi dalle cucine al tetto, tutto, lui se lo fa tutto su e giù diverse volte. E c'è una bellissima scena in cui per scappare spegne le luci nella discoteca, ma non calcola che tutti hanno i cellulari, e tutti accendendo i cellulari fanno luce, e lui si ritrova comunque di nuovo illuminato. Ma guarda, veramente un tour de force fantastico. So che il film è stato comprato in quasi tutti i paesi tranne l'Italia, quindi al momento non ha una distribuzione. Ma scusa, pensa, gli italiani vanno al ristorante, prendono l'aereo, comprano, li facciamo mandare al cinema. Scusami. Però pensa che la Warner l'ha comprato per distribuirlo in America e ha comprato la sceneggiatura per fare il remake. Quindi ci sarà il remake americano. Che il film è francese. È francese. Vabbè, ce ne andiamo senza un vero perché, così come siamo arrivati. Grazie a tutti. Il gatto con gli stivali. È il film di Natale, tra poco lo vediamo, vi saprò dire com'è. Andatevi a vedere Tintin, è veramente un bel film. Il paese delle spose infelici, il cuore delle grandi ragazze. Ne parliamo la prossima settimana. Ma film bomba quest'anno non ce ne sono. Allora, ci sarà tra due settimane il nuovo Twilight, che farà sfaceli al Festival di Roma. Sono stati presentati meno di 15 minuti del film, cioè niente, e c'era una fila di ragazzine che urlavano che non si racconta. Quindi ci sarà il delirio pure per questo ultimo. Ma c'è un remake di Cane di Paglia? Sì, c'è un remake di Cane di Paglia. Cani di Paglia, non Cane di Paglia. Ho sbagliato? No, è vero, hai ragione. Intanto Cane di Paglia, questa è una cosa sbagliatissima, perché è il cane di paglia la parte della corda che brucia in fretta, che è il titolo del film. È un errore di traduzione dell'adattamento italiano. Bene, questa cosa pone veramente male. C'è anche un altro remake, Le Nevi del Kilimangiaro. Un remake di che? È un film degli anni 50 che si chiamava proprio Le Nevi del Kilimangiaro. Ma sicuro? Adesso controllerò se è lo stesso. No, controlla. Vedremo. Voglio vedere. No, magari un altro film con lo stesso titolo, valla a sapere. Ma no, niente, per Natale non esce niente. Il film di Natale come I film grossi di Natale saranno Il gatto con gli stivali, che è il cartone di Natale sostanzialmente. Ci sarà Lady di marzo, che è il nuovo film di George Clooney che abbiamo visto a Venezia, che è un bel film, veramente un bel film politico tosto. Quei film che una volta faceva Redford, diciamo. Ci sarà il film dei Muppet, che è un altro film per ragazzi, ma diciamo altre cose grosse no. Se non sbaglio dovrebbe uscire anche Sherlock Holmes 2. Ah sì, forse sì. Perché uscì, ricordo che uscì sotto Natale due anni fa, per cui dovrebbe essere la medesima data. Oh, c'è Ligabue, Campovolo 2-0.